Washington. Cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla, è una faccina piccola, così. E con i suoi fratelli, piccolina come quelli, puoi vedere la foto che ho con me. Cos'è che sta volando? Sembra una pallina. O cosa sta ancora volando? Lentamente si avvicina. Ogni piccolo movimento spara. Prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo sentimento. È meglio non chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è. Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles e rock and roll. Era una macchina negra, ma adesso mi chiamano Zebra. Da quando mi ha messo le braccia di un bianco di nome John. Tu vuoi andare a Washington? Ma cosa vai a fare laggiù? È solo un sasso, non si vede un cazzo. Non è rimasto in piedi più niente, nemmeno là. Chissà se mi sta ascoltando. Chissà se anche lui sta pensando. Eccolo lì che si avvicina.